2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, la nostra puntata pasquale. Siamo in onda come sempre il venerdì tra le 22 e le 23, domenica 13:30-14 con la nostra mini replica, ma come sempre vi consiglio di scaricare oppure ascoltare in streaming il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. La scorsa settimana avevo parlato di una possibile conseguenza della diffusione di sistemi connessi ad internet e della crescente dipendenza di alcuni servizi proprio da internet. Cioè, alcune cose già oggi, ma sempre più in futuro, funzionano solo se c'è connessione e se questa connessione abilita quel servizio. E se volete riascoltare queste considerazioni, sono proprio all'inizio della puntata della scorsa settimana. Questa settimana c'è un altro interessante esempio di conseguenze dell'uso della tecnologia. Allora, tutto parte da un'idea, devo dire una bella idea, quando ho sentito, ho letto e poi ascoltato quello che vi farò sentire tra poco, ho detto, beh, geniale. Allora, una bella idea di un'agenzia di pubblicità che ha realizzato uno spot televisivo per la catena di fast food Burger King. You're watching a 15-second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper burger? In questa pubblicità l'attore dice: state vedendo uno spot di 15 secondi di Burger King, che però non sono sufficienti per spiegarvi gli ingredienti che ci sono nel Whopper, che è il panino più noto di questa catena di fast food. L'attore conclude dicendo: ho un'idea. E poi pronuncia: okay Google. Ok Google, che cos'è il Whopper? Allora, molti di voi sanno che il comando Ok Google serve per attivare con la sola voce una ricerca su molti telefoni, non tutti, ma su molti telefoni Android. Basta dire Ok Google, il telefono si attiva e si attiva la ricerca sul motore di ricerca di Google. Vale anche per l'iPhone con l'applicazione Google. È un po' una parola, un comando, una parola d'ordine. Oppure serve per svegliare e attivare Google Home, che è un assistente casalingo venduto negli Stati Uniti. Ce ne sono due che si stanno facendo concorrenza, sia quello di Amazon, che si chiama Amazon Echo, che è basato sull'assistente Alexa, oppure Google Home, che si attiva appunto dicendo «Ok Google». Allora, l'intenzione di chi ha ideato questo messaggio è attivare appunto con questo comando il terminale che uno ha in casa e magari ha vicino al televisore e lo sta guardando in quel momento. È un esempio di uno spot che entra in casa tua in modo attivo. E quindi il dibattito è legato all'invasione della privacy, alla possibilità che si possa attivare a distanza con la sola voce un dispositivo di ricerca e anche sul legame di questi strumenti con la pubblicità. Allora, nel caso specifico c'è da dire, se ne è parlato tantissimo negli Stati Uniti, trovate un sacco di cose, soprattutto in lingua inglese, di media americani, anzi vi consiglio di leggere sempre in lingua inglese perché poi molti in Italia non riportano precisamente le cose o perché non le capiscono oppure per pigrizia, anche se ci sono quelli che le riportano in modo preciso come facciamo a 2024. Basta leggere molto. Allora, nel caso specifico c'è da dire che da un lato Google ha reso innocuo lo spot, probabilmente agendo sul timbro vocale dell'attore dello spot, e devo anche dire che da prove che ho fatto io sui terminali Android questo spot non ha nessuna influenza, proprio perché molti terminali di Android vengono attivati solo dal timbro vocale del proprietario del telefono. Però Google Home, che è questo strumento che è in casa, non ha questa precisione, cioè non viene attivato solo da una persona, perché essendo uno strumento che sta in casa deve essere attivato da più persone con timbri diversi. Immagino che nel futuro ci sarà un modo per selezionare le persone che possono attivare Google Home. Infatti Google ha disattivato questo spot, però c'è un grosso dibattito proprio perché chi fa pubblicità sta cercando di utilizzare questi strumenti anche come veicolo pubblicitario. Poi c'è un'altra parte del dibattito legata a Wikipedia, perché quando questo attore in questo spot dice ok Google, che cos'è il Whopper, viene attivata, o comunque in un primo momento veniva attivata, una ricerca su Wikipedia che raccontava proprio che cos'è il Whopper con tutti i dettagli. C'è stato chi è andato su Wikipedia a cambiare le pagine di Wikipedia. Questa modifica è durata poco, è stata poi corretta subito dopo, e la prima modifica era una cosa sgradevole nei confronti di Burger King. Beh, comunque molto interessante. Ci sono altre considerazioni interessanti da fare a proposito di privacy, vista la diffusione che stanno avendo questi strumenti, cioè, ripeto, Amazon Echo e Google Home, che sono questi due strumenti, sono cose grandi come un barattolo di marmellata che vengono messe in casa, sono alimentate a corrente elettrica e poi connesse alla rete Wi-Fi. E io, mentre sono in casa, posso dire ok Google, oppure Alexa, che cos'è questa cosa? Mi dici che tempo farà domani? Sono assistenti vocali attivati dalla voce. Allora, c'è chi si chiede, non è che questi strumenti che hanno un microfono sono sempre lì ad ascoltare e magari registrano le voci di casa e fanno analisi su quello che viene detto in casa? Beh, si potrebbero scoprire molte cose, anche in forma più o meno anonima, però si potrebbe sapere se in casa mia parliamo di calcio, oppure parliamo di tecnologia, parliamo di altro sport. I produttori dicono che solo con certe parole d'ordine si svegliano e quindi si mettono in ascolto, però questo è un tema sicuramente interessante, molto importante. È in generale comunque un bel tema di dibattito, considerando che si andrà sempre più verso un mondo fatto di interfacce utente diverse a quelle a cui siamo abituati. Cioè, oggi siamo abituati a interfacce utente che sono sostanzialmente dei display, degli schermi, che siano touch oppure siano schermi del computer, ma in futuro le interfacce utente, le cosiddette user interface, saranno diverse. La forma più accreditata di interazione con i sistemi che ci sono su internet è la voce, come appunto mezzo di interazione, tant'è che alcuni parlano di zero user interface, cioè user interface, cioè interfaccia utente zero, cioè non ci sarà più interfaccia utente perché noi prendiamo come riferimento, come interfaccia utente, il display. Invece, se interagiamo con la voce oppure con i gesti, tutto si riduce a zero, cioè non abbiamo più strumenti che vediamo, che possiamo toccare, con la voce comandiamo. C'è ancora molto da fare, perché questi sistemi non è che capiscono tutto, e tra poco parleremo proprio della capacità delle macchine, dei computer, di comprendere il nostro linguaggio e di interagire, di darci risposte di conseguenza. Adesso alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News. Digital News. Non ci sono tantissime notizie questa settimana, ma alcune sono molto interessanti anche per approfondimenti personali o futuri a 2024. Iniziamo da quello che è successo in una piccola azienda in provincia di Parma, dove due dipendenti sono state licenziate dopo aver parlato male del loro capo su una chat di gruppo in WhatsApp. Faranno ricorso, ma essendo una chat di gruppo fra almeno tre persone, molto probabilmente di più perché era la chat dei dipendenti, per alcuni esperti di diritto il fatto si configurerebbe come diffamazione. Altri, come dice, abbiamo anche intervistata a Radio 24 in questi giorni durante i nostri giornali radio, come dice l'avvocato che difende queste due dipendenti, a questo punto ex dipendenti, dice no, questa era una comunicazione in un luogo privato. Vedremo che cosa dirà il giudice, questo è estremamente interessante, però ricordiamo che sono molte, forse troppe, le persone che ancora non capiscono che la diffamazione è uno dei reati più diffusi su internet, e al di là di quello che dirà questo giudice per quanto riguarda la chat di gruppo su WhatsApp, però è un fatto che quando siamo su un forum, ad esempio, dove ci sono i commenti su Facebook, quando le pagine sono visibili a molte persone, beh, ricordiamo che in tutti questi casi, se uno scrive determinate cose, quella si può configurare come diffamazione. È come se in un bar davanti ad altre persone uno parla male di un terzo che magari non è presente e uno delle persone che sono invece lì ad ascoltare va a riferire al terzo che è stato diffamato. Vodafone ha lanciato in tutta Italia per i clienti collegati al servizio Fibra la nuova Vodafone TV o Vodafone TV, che ha un piccolo decoder da installare in casa a valle del collegamento ad internet e mette insieme contenuti di vari fornitori come Sky e Chili. Si tratta di una nuova offerta nel dinamico e sempre più variegato mercato dei servizi in streaming via internet. Poi ognuno valuta se è un'offerta conveniente ai propri usi e costumi, alle proprie preferenze, ma siamo sempre su un prezzo ormai standard. Moltissimi servizi sono attorno ai 9,90, comunque ai 10 euro. O al mese, o come in questo caso ogni 4 settimane, che non è la stessa cosa, capisco. E forse già per questo motivo per alcuni non è un servizio che fa proprio caso. Un'ultima notizia riguarda i bambini, ci sono sempre nuovi servizi grazie ad internet o a sistemi digitali per i bambini. Il primo che vi segnalo è un nuovo canale sul digitale terrestre che dal 4 maggio esordirà sul canale 45, si tratta di POP, il primo canale gratuito di Sony Pictures Television Network in Italia. E pochi giorni fa, a proposito di bambini e sempre a proposito di servizi televisivi, per gli abbonati al pacchetto Sky Famiglia era stata lanciata un'applicazione per tablet dedicata ai bambini che si chiama Sky Kids. Dall'11 aprile su CrowdFundMe, che è una piattaforma di crowdfunding, cioè piattaforme che servono per raccogliere fondi e finanziare idee o aziende, start-up, solitamente. Allora, dall'11 di aprile su CrowdFundMe è attiva la campagna di equity crowdfunding, scusate questi tanti termini inglesi, ma così si chiama, perché quando si finanzia un'azienda appunto si entra nel perimetro di cui abbiamo tra l'altro parlato recentemente del equity crowdfunding. Allora, la campagna è quella di Bluvery, è scritto Bluvery con due O, ed è un'app, un servizio, una startup che consente di inviare fiori dal proprio smartphone. Si tratta di un servizio di consegna a domicilio di fiori. Ovviamente ci sono altri servizi in giro per il mondo, in molte città. Lo scopo di questa raccolta fondi è trovare risorse per estendere questo servizio da Milano a tutta Italia. I ragazzi di Bluvery puntano a realizzare un servizio semplice dove si possono ordinare fiori senza starci a pensare troppo dallo smartphone, in modo molto veloce, molto rapido, molto semplice. Quando uno è in giro, magari gli viene in mente, ah, devo spedire i fiori a quella persona, anche magari all'ultimo minuto, e lo faccio dallo smartphone. E quindi qui si basa l'idea. Ovviamente un fioraio potrà in futuro, così come qualsiasi tantissimi altri servizi collegati a servizi di consegna a domicilio, un fioraio potrà magari collegarsi a questo servizio o anche ad altri, quindi ricevere ordini da varie applicazioni, così come ad esempio oggi succede per i servizi che richiedono prenotazioni per cibo. Io sono un pizzaiolo e ricevo ordinazioni dalla tal applicazione, dal tal servizio su internet o dal tal altro, e posso averne 1000 e così aumento i miei clienti. Allora, un'altra delle particolarità di Bluvery è che dallo scorso autunno hanno attivato una chatbot su Facebook Messenger. Come funziona? Uno cerca Bluvery come contatto sul Messenger di Facebook e può interagire prenotando e ordinando dei fiori con di fatto una macchina. Cioè, dall'altra parte non è che c'è il fioraio che risponde e mi dice: ah sì sì, mando le rose alla tal persona. C'è una macchina. Ovviamente stiamo parlando di servizi ancora molto semplici, siamo ai primi vagiti di questi servizi di chatbot, di sistemi di messaggistica automatici, e in questo caso specifico, se uno va un po' fuori dal seminato, la macchina non capisce più, cioè devi parlare di fiori e devi dire quelle 4-5 cose, cioè fiori di quel tipo che voglio che vengano consegnati alla tal persona nella tal città, eccetera eccetera. Insomma, stiamo parlando di una cosa molto molto semplice, però è sicuramente una idea. Ma io mi sono fatto una domanda, più di una domanda, e la vorrei girare ad un esperto: a che punto siamo con questi chatbot, questi sistemi che prevedono un'interazione che punta ad essere la più umana possibile, ma siamo ancora molto lontani. E quindi quanto capiscono le macchine? Marco Varone è nonché presidente, ma anche responsabile dello sviluppo tecnologico di Expert System. Expert System è un'azienda italiana fra le prime al mondo a specializzarsi in tecnologie semantiche che abilitano l'uso di questi servizi. Marco, bentornato a 2024. Grazie. Una domanda subito per chiarire di cosa stiamo parlando. Quando facciamo riferimento a chatbot, ci riferiamo solo a un sistema che interagisce con noi al posto di un umano che sta dall'altra parte di una chat, tipo Messenger di Facebook, tipo WhatsApp, una cosa del genere, o c'è anche dell'altro? Questa è l'idea di base, un sistema che sia in grado di conversare il linguaggio di tutti i giorni, come se fosse una persona, e di riuscire a fornire informazioni, a eseguire azioni e a fare quello che tipicamente ci si aspetta da un essere umano. Può essere visto per il mondo delle chat, ma anche per le aziende che devono migliorare i rapporti con i propri clienti, i propri utilizzatori. Ad oggi a che punto siamo arrivati? Esiste già una tecnologia, anche magari molto costosa e molto sofisticata, che un'azienda può utilizzare e tale per cui io, persona, davanti a un sistema di messaggistica in tempo reale sul computer oppure sullo smartphone, interagisco con questa macchina e non mi accorgo che dall'altra parte c'è una macchina, e quindi posso fare qualsiasi tipo di domande e ottengo qualsiasi tipo di risposta a tono, a senso? No, non esiste ancora una tecnologia di questo tipo e francamente ancora per molti anni non esisterà. Purtroppo negli ultimi 12-18 mesi i grandi big del settore, Google, Microsoft e Facebook, hanno iniziato a creare sempre maggiori aspettative nei confronti di questi chatbot per cercare di farli passare per veramente una simulazione quasi completa delle capacità di una persona. Ma non siamo a questo livello e servirà ancora molto tempo e molto lavoro per arrivarci. È sicuramente possibile simulare conversazioni anche abbastanza complesse in domini specifici, per problemi puntuali, per un insieme di informazioni anche abbastanza larghe, ma assolutamente non è possibile replicare la vera conversazione con un essere umano. Ci metteremo molti anni, pochi anni, quanto tempo ad arrivare a una cosa simile ad una conversazione umana? Allora, i più ottimisti dicono 5 anni, i più pessimisti 50, quelli realisti 10 anni è una buona stima. Tu quindi stai su questo? Io sono su quelli, diciamo, realisti, leggermente pessimisti. Ah, quindi leggermente pessimisti. Detto però da una persona che si occupa di tecnologia. E quindi... Sì, perché il problema è che le persone, giustamente, hanno una intelligenza, una conoscenza, una cultura, una capacità anche emozionale di interagire con le altre persone estremamente difficile replicare. Molto spesso non è nemmeno una questione di conoscenza, ma di comprensione del tono, della sfumatura, del sottinteso, di andare a recuperare magari un'informazione che era stata data all'inizio della conversazione, perciò capace di tenere traccia della conversazione a livello molto profondo. Perciò è un tema veramente complesso, non bisogna spaventarsi, è assolutamente necessario continuare a sviluppare, investire in ricerca e sviluppo, ma è un tema più complesso di quello che viene attualmente rappresentato. Sì. Tu come immagino, comunque voi esperti di questo settore, come immaginate lo sviluppo? Che ci siano tantissime tecnologie che ogni azienda poi assembla sui propri sistemi, oppure questi saranno servizi che io comprerò e magari saranno poche grandi aziende nel mondo che forniranno questo tipo di servizi, magari su abbonamento? Allora, per i prossimi anni saremo più in una situazione simile a quella attuale, in cui ci sono delle realtà abbastanza specializzate nel settore che forniscono servizi di questo tipo, che vengono adattati alle esigenze del cliente e che si inseriscono nell'insieme dei servizi che un'azienda compra per poter interfacciarsi e interagire con i propri clienti, con i propri utilizzatori. In tempi medi, diciamo nell'arco di 5-6 anni, è del tutto realistico pensare che ci sarà una concentrazione e questo diventerà uno dei tanti servizi cognitivi che i grandi player del settore potranno erogare, solitamente attraverso le piattaforme più moderne, perciò software as a service e disponibilità sul cloud. Sì. Tu hai citato la parola cognitivo, una delle buzzword, una delle parole che girano tanto in questi ultimi tempi assieme a intelligenza artificiale, cioè cognitive computing, cioè la capacità delle macchine di interpretare il linguaggio. Non so se è corretta questa definizione, stiamo parlando sostanzialmente di questo tipo di tecnologia? Sì, la definizione è corretta e i chatbot cadono perfettamente all'interno delle tecnologie di cognitive computing. Il loro obiettivo è quello di comprendere e di riuscire a semplificare l'interazione grazie a questa comprensione, e la comprensione richiede dei processi cognitivi. Quelli umani sono quelli che usano le persone e il computer cerca di simulare alcuni di questi processi cognitivi utilizzando una grande base di conoscenza e di esperienza accumulata nel corso degli anni e delle implementazioni e dando la possibilità di interagire col sistema con la lingua di tutti i giorni. Faccio una domanda come se la facessi una persona, mi aspetto una risposta e la conversazione continua. Voi che tipo di tecnologia fornite? Cioè voi sfruttate le vostre competenze nella capacità di analisi del linguaggio, dell'interpretazione del linguaggio e fornite questo pezzo di tecnologia? Sì, noi da molti anni in realtà implementiamo chatbot, prima ancora che si chiamassero chatbot. Chatbot è il nome più moderno utilizzato per quelli che in passato erano gli assistenti, cioè sistemi in grado di aiutare le persone. E per riuscire ad avere una buona comprensione, non voglio far pensare che non sia possibile già adesso implementare chatbot efficienti e utili in grado di dare un valore aggiunto. Semplicemente il valore aggiunto ottenibile è inferiore e la complessità raggiungibile è più piccola di quella che sembra seguendo le ultime mode del mercato. Noi utilizzando questa tecnologia semantica siamo in grado di capire abbastanza bene e in modo abbastanza approfondito le domande che una persona fa in una conversazione, di rispondere andando a pescare da una base di conoscenza che è stata analizzata in precedenza e di seguire e imbastire una conversazione abbastanza semplice, ma che comunque è in grado di coprire un buon numero di scenari reali. Semplicemente il segreto è quello di non pensare di poter implementare un chatbot che risponde a qualunque cosa, capisce qualunque richiesta, ma che deve essere guidato all'interno di un dominio o di un insieme di conoscenza abbastanza ridotto specifica. Voi avete appena annunciato un accordo con Zurich, con l'assicurazione, un accordo globale. Che cosa significa? Che Zurich, così come stanno tentando di fare altre assicurazioni, vorrà utilizzare questa tecnologia per fare dei risponditori automatici, cioè degli assistenti automatici che rispondono ai clienti, o va oltre questo sviluppo? Va molto oltre. Noi abbiamo già implementato una serie di soluzioni di cognitive computing con Zurich, che ha scelto la nostra tecnologia come tecnologia core per questo tipo di implementazioni, e paradossalmente il chatbot è una delle ultime cose che faremo. Inizieremo a lavorarci fra qualche mese. Perché? Perché soprattutto nel mondo assicurativo la parte di interazione diretta con il consumatore finale, con l'utente finale, non è così frequente, non è così strategica, perché alla fine l'assicurazione ha una serie di processi interni in cui il cognitive computing può dare molto più valore aggiunto in tempi più brevi rispetto a un chatbot. Faremo sicuramente implementazione di chatbot anche per loro e per altri nostri clienti nel settore, ma non è così strategico in questo momento per loro. E quindi un'assicurazione che cosa, perché e per far cosa utilizza cognitive computing? Allora, l'utilizzo principale è per l'ottimizzazione dei processi e l'automatizzazione dei processi interni. All'interno dell'assicurazione ci sono ancora enormi flussi di conoscenza non strutturata, documenti, polizze, contratti, certificati medici, richieste di risarcimenti, un numero elevatissimo di contenuti testuali in qualunque formato, linguaggio, struttura, veramente con una variabilità enorme, che è possibile comprendere e analizzare in modo automatico o semiautomatico solo capendo quello che c'è all'interno attraverso una tecnologia cognitiva. Perciò il grosso del valore aggiunto che è possibile fornire al mondo assicurativo è nell'automatizzazione di loro processi di gestione della conoscenza. Un'ultima domanda sulla lingua. Queste tecnologie sono indipendenti dalla lingua, cioè una volta che la tecnologia è stata sviluppata poi la si può adattare all'inglese, all'italiano, al giapponese, al cinese o invece no? Allora, si può dire che circa l'80% del lavoro che viene fatto per sviluppare queste tecnologie è indipendente dalla lingua, perché riguarda la conoscenza del mondo, delle relazioni, dei concetti, delle entità, tutto quello che è indipendente dalla lingua. Un 20% invece richiede un lavoro specifico per ogni lingua, che può essere più o meno complesso a seconda della complessità della lingua. E l'inglese è più facile? L'inglese è il più facile, l'inglese è il più facile di poco, ma è il più facile. Bene, grazie a Marco Varone per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, l'indirizzo di posta elettronica che potete utilizzare per interagire con me è 2024@radio24.it. Esistono anche altri due canali, ma dipende che cosa dovete dire, cioè dovete scrivere, Facebook e anche Twitter. Questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica 13:30-14, oppure in super podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Adesso parliamo di uno strumento che sarebbe molto necessario, ma purtroppo non tante persone lo conoscono. È una cosa però molto semplice da utilizzare, molto popolare tra alcune persone. Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, un saluto agli ascoltatori. Allora Gianfranco, diciamo subito che parliamo di NAS, quindi che cos'è un NAS, che cosa sono i NAS? Possiamo paragonarli a un disco esterno per il nostro computer? Beh, un pochino effettivamente ci assomiglia. Cioè, disco c'è, o meglio, c'è uno storage, quindi la capacità di archiviare dei dati, ma quella N sta per Network Attached Storage, quindi è uno storage collegato alla rete. In realtà nasce così, come una possibilità di avere un posto dove memorizzare dei dati, ma non locali, quindi non in un disco interno a un computer, non in un disco per esempio USB collegato solo a un computer, ma in un disco di rete, quindi un disco che è collegato alla propria rete locale. In realtà poi questo concetto evolve negli anni, perché ci si accorge che questo dispositivo di archiviazione può fare qualcosa di più. Quindi è un dispositivo che diventa intelligente, quindi non soltanto archiviazione, ma fa anche delle cose quasi in autonomia, ma cose molto interessanti. Garantisce un livello di sicurezza dei dati nettamente superiore a un disco interno a un computer o a un disco esterno, per esempio USB. E poi soprattutto, proprio perché è collegato alla rete interna locale, ma è in grado anche di collegarsi a internet e di rendersi disponibile, ovviamente con tutte le sicurezze del caso, agli utenti che sono in mobilità. Quindi dei dati che sono sempre più numerosi nella nostra vita di tutti i giorni, che sono disponibili molto velocemente a casa o in ufficio perché il disco è fisicamente sulla nostra rete, ma che sono disponibili anche a velocità di internet, ovviamente, e quando siamo in mobilità, certo, in circolazione, o quando siamo per esempio all'estero, siamo in un hotel, siamo certo. dovunque abbiamo un collegamento a internet, possiamo poi accedere a questi dati in maniera furba. Questo in buona sostanza è quello che viene denominato NAS. Poi torniamo su molti dei concetti di cui tu hai parlato. Una prima domanda potrebbe essere: ma tu hai citato la rete. Io ho un computer collegato al router che poi finisce sulla rete internet. Ho una rete in casa, quindi? Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché tutti i router consumer, diciamo così, che sono poi integrano, se è una DSL, anche la parte di modem, e spesso integrano anche la Wi-Fi, quindi una rete, hanno più di una porta di rete fisica normalmente dietro. Se controlliamo, hanno 1, 2, 3, 4, normalmente almeno 4 porte Ethernet. Ecco, quella è una piccola rete, il cui centrostella è proprio l'apparato spesso del gestore, o forse che abbiamo comperato separatamente, il cosiddetto router. Collegandoci al router, in realtà nella sua porzione che viene chiamata switch, quindi alla presa di rete, noi possiamo collegare per esempio più di un computer, possiamo collegare il TV per esempio, possiamo collegare anche un NAS. Alcuni NAS hanno anche se un pochino un collo di bottiglia della velocità poi di connessione, la capacità di collegarsi anche in Wi-Fi. Quindi significa che possono aderire a una rete Wi-Fi e quindi essere collegata alla nostra rete locale anche senza una connessione fisica, che comunque per motivi di velocità e di accesso ai dati è sempre consigliata. Certo, tu dici, e me lo hai detto altre volte, che ogni famiglia dovrebbe avere un NAS in casa. Su questo sono certissimo. Perché? Le famiglie magari non lo sanno, ma perché siamo passati in pochi anni da una situazione monodevice, dove c'era al massimo un computer di casa, a una situazione dove invece abbiamo tanti device, quindi spesso ogni componente della famiglia ha un dispositivo fisso, magari un computer portatile, un tablet, eccetera, eccetera, e poi ognuno sicuramente allo smartphone, che di fatto è un piccolo computer anch'esso, che richiede anche lui un sistema di backup dei dati, vogliamo dire così, ma comunque deve accedere ai dati e deve probabilmente scaricarne. In una situazione dove tutti i membri della famiglia generano dati semplicemente scattando foto, perché scrivono testi, perché si preparano documenti per gli studenti, per la scuola, per chi lavora, per il lavoro, per tutte le attività, gli hobby che ognuno ha, ecco, non avere un posto centralizzato dove vengono messi tutti i dati significa deterministicamente perdere, lasciare in giro questi dati, perderli, fare dei backup che poi non sono mai aggiornati, perderne traccia, mettere tutto su un hard disk esterno che poi si rompe e veramente lì poi sono guai, certo, e succede, certo. Quindi serve avere un punto centralizzato dove mettere tutti questi dati e averli in linea, quindi non fare un backup che poi viene su un disco esterno che poi viene levato, perché poi quel backup regolarmente nessuno ha la costanza di aggiornarlo tutte le sere, nessuno si ricorda quali file ha aggiunto dall'ultimo backup, quindi dovrebbe usare un programma per fare un backup vero e proprio, che normalmente è anche molto lungo e poi manca sempre il tempo. Il modo migliore, soprattutto per chi non fa un backup professionale, quindi non ne fa un motivo professionale, è quello di avere i file in linea. Quindi accede a una cartella dove ha i propri file, li aggiorna, li modifica e lì avrà chiaramente accessibili da un PC, da due PC, da cinque PC, dallo smartphone, dal tablet, sia che sia a casa, sia che sia in mobilità. E questa è un'esigenza oramai di tutte le famiglie che abbiano una minimamente, diciamo, tecnologizzate. Sì. Saluto Alvise Sinigaglia, che è responsabile per l'Italia di QNAP. Benvenuto a 2024. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ricordiamo che QNAP, scritto con la Q di quadro davanti, QNAP è uno dei marchi principali di questo mercato, ha una quota che raggiunge quasi il 50%, attorno al 45%. Alvise, ci dai un'idea di prezzi, un prezzo entry level per questo tipo di prodotti? Ma diciamo che ce n'è per tutti i gusti, nel senso che ovviamente poi c'è il prodotto più entry, che può essere la semplice unità con due dischi, quindi abbordabile in termini di prezzo, perché con i 200-300 euro si riesce ad avere una soluzione. Poi ovviamente spesso riceviamo le richieste dell'utente che dice sì, ma io vorrei fare anche quest'altro, vorrei collegare la televisione, aspetta però anche delle telecamere, perché nell'abitazione sempre più c'è il concetto di smart home, quindi domotica, quindi aggiunge le telecamere, poi ho anche dei sensori, quindi spesso vengono aggiunte delle richieste e quindi è opportuno dimensionare in maniera corretta e quindi magari scegliere dei prodotti che siano più dimensionati, piuttosto che l'amante di film, di filmati in 4K che ha necessità di spazi molto, molto importanti e quindi va a scegliere delle unità più grosse in termini di dimensioni ma anche di prezzo, perché poi quelle unità possono derogare in maniera corretta un insieme di servizi. Tu hai detto, hai citato la parola dimensionare, quindi sostanzialmente, per semplificare molto, la differenza tra un NAS e l'altro la fa la dimensione dei dischi, quindi la capienza di tutto questo sistema, del dispositivo. Sì, uno dei parametri è sicuramente la scelta della quantità di spazio, quanto spazio il cliente ha bisogno, quindi ho bisogno di spazio soltanto per le foto e so che faccio una serie di foto all'anno perché nelle vacanze più o meno, però poi tenendo conto del discorso di prima che c'è la figlia che fa anche lei le foto, c'è il figlio, così allora uno deve analizzare, nel senso prima di acquistarlo dire sì, io voglio metterci tutte le mie foto, però sono anche appassionato di video e magari anche full HD, sì, che quindi occupano almeno dello spazio, quindi dimensionare in quel senso. E poi c'è il concetto di quanto potente, perché se gli faccio fare solo una cosa, come lo smartphone stesso, può andare bene, se comincio a metterci 10.000 applicazioni probabilmente è più lento, quindi devo scegliere un qualcosa di più performante in termini di CPU, in realtà poi nel tecnico di RAM. Abbiamo detto già tantissime cose che vanno approfondite. No, non sono troppe, sono tutte quelle che vanno dette. Gianfranco, a proposito di applicazioni, allora questo qua è un computer, non è uno spazio di storage esterno. Ma nasce come spazio di storage, però avendo uno spazio, cioè non è un disco, fatemi dire, stupido. Sì. È un disco che ha una logica, un'intelligenza, una capacità elaborativa, questo device. Normalmente addirittura, cioè, hanno un sistema operativo in NAS, quindi un sistema operativo che è una derivazione di Linux normalmente, ma non si vede neanche, cioè ci si interfaccia soltanto con il browser, e su questi NAS si possono far girare determinate applicazioni che ci aiutano non solo nel di fare un servizio di file server, quindi di fare un dispositivo che ospita un archivio di tutti i nostri dati, ma fa qualcosa in più. Per esempio, facciamo qualche esempio, il classico, dico classico ma perché c'è da tanti anni ma non è poi così classico, media server. Che cos'è un media server? È un archivio nel quale io metto foto, video e musica, e questi tre tipi di contenuti vengono visti facilmente plug and play senza nessun tipo di configurazione da altri dispositivi in grado di riprodurli che sono sulla stessa rete, i cosiddetti dispositivi, bruttissima sigla, DLNA o DLNA. Praticamente, tanto per farla semplice, la stragrande maggioranza dei sistemi audio connessi alla rete, anzi la totalità dei sistemi audio connessi alla rete, è la totalità dei TV con la presa di rete, cioè mi verrebbe quasi da dire la totalità tutti, dei TV, di quelli almeno in vendita ora. Cosa posso fare? Beh, da un TV qualsiasi collegato alla rete, dove ho anche un NAS che sta facendo da media server, io posso accedere istantaneamente col telecomando del TV, senza nessuna app aggiuntiva, automaticamente e molto facilmente, a tutta la library video, per esempio ai video che ho girato, ai miei video eccetera eccetera, a tutte le mie foto, oppure posso riprodurre su un sistema audio che sia più o meno sofisticato purché connesso alla rete locale, ovviamente, tutta la mia musica che ho sul NAS. Quindi è il sistema più facile per fare un sistema centralizzato di intrattenimento domestico. Sì, sì. Quando, e questo è un primo utilizzo, ma uno dei tanti. Quando Alvisi diceva posso aggiungere delle videocamere, in che senso? Ecco, perché un sistema di videosorveglianza oggi serve ovviamente se sorveglia, cioè se ci sono delle videocamere, ma queste videocamere devono salvare il dato da qualche parte. La soluzione più classica è quella di avere soluzioni chiuse, quindi delle videocamere che dialogano in un collegamento proprietario, prima era addirittura analogico, adesso poi è diventato digitale, con un network video recorder che registra tutto il contenuto che arriva da queste videocamere. Però questo francamente forse può andare bene in ambiti giganteschi dove ho tantissime videocamere e tantissimi video recorder, ma se io in casa metto 1, 2, 3, 5 videocamere IP, una in giardino, una sul balcone, una in salotto per esempio, e voglio avere un sistema di controllo, non c'è bisogno che io prenda un network video recorder dedicato, ma uso il NAS che ho già, che è già compatibile, perché posso caricare appunto l'applicazione anche per la videosorveglianza. In alcuni casi c'è da comprare una piccola licenza che serve per ogni videocamera aggiuntiva dopo la prima, dopo la seconda, a seconda dei brand, ma automaticamente tutto mi viene memorizzato sul mio NAS, ovviamente soltanto quando c'è, per esempio, quando la videocamera percepisce un movimento, quindi non memorizza tutto, meglio memorizza e poi cancella quello che va trascurato automaticamente con delle politiche, e tutti questi dati sono anche accessibili da remoto, perché il NAS, come dicevamo, è connesso alla rete, quindi anche in un sistema di videosorveglianza è molto utile. L'altra cosa fondamentale sono i backup, per esempio. Ecco, questo è importantissimo, perché molto spesso vengono persi dati proprio perché non si è adottata una politica di salvataggio corretta dei dati. Vengono persi i dati, che è il caso più grave. Il caso un po' meno grave, ma comunque molto noioso, è quando viene perso molto tempo. Parlo per esempio dei virus che diciamo prendono il possesso del computer e te lo rilasciano soltanto dietro pagamento di un riscatto, diciamo, sì, così, quindi ransomware o sì, CryptoLock, eccetera eccetera. Allora il modo più semplice è avere un backup poco precedente, cancellare completamente tutto quello che c'è sulla macchina e ricaricare. Certo. In un'ora si riparte, sì, come prima, senza spendere niente, cioè, ovviamente, ammesso, senza farsi ricattare. Però perché, bisogna avere un sistema centralizzato di backup. Ammesso, perché poi domattina qualcuno scrive, dice non avete detto, adesso lo diciamo, ammesso che il ransomware non sia così intelligente e sofisticato da prendere possesso anche del NAS. Però su questo ci si può far poco, comunque bisogna stare attenti alle email che si cliccano. Diciamo che proprio perché normalmente il virus, qui diciamo, facciamo una piccola digressione sulla sicurezza, ma il virus non entra nella maggior parte dei casi per una vulnerabilità nativa del sistema, ma per una vulnerabilità dell'uomo, certo, dell'utente che clicca qualcosa di troppo. Ecco, il NAS non clicca a caso o non clicca erroneamente. Diciamo, se c'è una vulnerabilità potrebbe anche essere, ma normalmente i produttori chiudono tutte le falle di sicurezza molto velocemente. Un NAS, per esempio, ha normalmente aggiornamenti che può fare anche in automatico tranquillamente del suo sistema operativo, che sono frequentissimi, anche settimanali delle volte. Alvise, a proposito di backup, che è una delle funzioni più importanti a mio avviso, secondo me è la più importante, è tutto, si può fare in maniera completamente automatica, cioè io imposto il backup e mi dimentico di tutto? Certo, sì sì, quello poi è lo scopo, perché ricordarsi poi di fare il backup il lunedì a pranzo penso che sia un qualcosa poi di... lo fai le prime settimane e poi chiunque di noi si dimentica, quindi si possono impostare degli orari, delle giornate, la ripetitività, quindi ogni quanto frequente fare il backup, e penserà lui a fare il tutto. Anzi, ci sono poi dei sistemi che verificano anche che tutto sia andato a buon fine, di ricevere una mail piuttosto che un sms, guarda che il tuo backup è andato a buon fine alle ore e tutti i dati sono stati copiati, piuttosto che guarda che c'è stata una problematica a metà, è saltata la corrente e non è andato a buon fine, quindi tiene conto che devi riverificarlo, devi farlo ripartire in manuale. Certo. Senti, ha senso un NAS con meno di due dischi, cioè con un disco, sempre a proposito di backup, perché ci sono sistemi su questi dispositivi, sui NAS, tali per cui con due o più dischi il salvataggio dei dati viene fatto in modo che se un disco si rompe, io quello lo tolgo, ne metto uno nuovo, lo sostituisco e i miei dati vengono ripristinati nel sistema senza che io mi accorga di nulla. Ma personalmente ritengo che abbia poco senso, proprio perché vada a perdere quella che è la ridondanza del dato su all'interno del NAS, quindi vado ad abbattere ulteriori sicurezze, quindi il minimo che noi consigliamo, pur avendolo a listino il singolo disco, consigliamo il due dischi, perché ho una copia già senza fare niente, quindi di default, perché comunque le meccaniche, quindi i dischi si possono rompere, come si può rompere, e quindi avere una ridondanza proprio in gergo è importante. Certo, a questo punto domanda, i dischi dentro al NAS glieli devo mettere io, lo posso comprare già configurato, già pronto? Nel nostro caso noi diamo delle liste di compatibilità, quindi diamo dei consigli quindi ai clienti, agli utenti di che disco acquistare, perché è molto forte anche la nostra attenzione di testare prima in casa madre delle varie tipologie di dischi, perché anche il disco, ci sono dischi e dischi, quindi è importante attenersi a delle linee guida che l'azienda lascia e che si trovano sul sito dell'azienda. Sì. Quindi Gianfranco, non è che io compro una scatola ed è finita lì, devo comprare anche i dischi. Sì, ma perché la scelta del disco e quindi soprattutto anche delle prestazioni, ma della capienza, è una scelta che, come dicevamo prima, dipende dal dimensionamento di ognuno. Quindi lo stesso NAS come hardware può andare bene per due utenti che hanno esigenze anche molto diverse, però proprio perché hanno esigenze diverse, uno magari ha bisogno di, si fa bastare due dischi da 2 tera, da 2 terabyte, e un altro invece ha bisogno di due dischi da 6 terabyte. Il costo cambia solo limitatamente alla parte, sì, diciamo, del disco. Sì, sì. E pensare invece di fare produttore di NAS, adesso mi metto nei panni di Alvise, offrendo non solo un'ampia gamma di macchine diverse per numero di dischi possibili, per prestazioni, per configurabilità, eccetera, eccetera, ma addirittura in tutta la variabilità dei dischi possibili, cioè della capienza dei dischi possibili, delle prestazioni dei dischi possibili, vorrebbe dire moltiplicare incredibilmente il numero di prodotti, sì, in catalogo, praticamente, sì, impossibile. Di configurazioni, poi alla fine è un po' come andare al concessionario d'auto e personalizzarsi l'auto, dove magari mi scelgo dei copertoni, delle ruote diverse piuttosto che degli optional, quindi spesso nascono delle macchine, nel senso di unità NAS, che magari ognuno è differente perché le esigenze diverse dell'utente, quindi non c'è uno standard facile da definire. Sì, va anche detto, proprio per sgombrare il campo da qualsiasi paura, che la maggior parte dei NAS permette di inserire il disco addirittura anche senza viti, in alcuni casi, perché si aggancia con delle clip di plastica. Certo. Oppure in alcuni casi con 4 viti, ma non c'è nient'altro da fare, si mette in questo cassetto il NAS, si inserisce il cassetto, il disco è già ovviamente corretto, si collega, cioè non è che ci sia un'operazione particolarmente complicata, anzi nulla a che vedere con quando si assemblavano i PC, facile, poi guidato con un'app all'interno, mette sempre nella scatola una linea guida molto semplice, proprio step by step, dove poter inserire i dispositivi, inserire il disco, chiaro. Ci vuole avviare la macchina. Sì. Comunque Gianfranco, c'è ancora chi gli assembla i PC, cioè io con chi lo sa fare, un mio amico, che lo facciamo. A proposito di dischi Alvise, ormai sono anche disponibili dischi SSD, cioè posso usare anche SSD? Certo, la tecnologia SSD sta avanzando e QNAP in questo è stata forse una delle prime aziende a rendere compatibili questa tipologia di prodotto. L'SSD porta dei vantaggi in termini di velocità, quindi come sui portatili abbiamo ormai, quasi tutti abbiamo degli SSD, c'è la possibilità di andare a inserire delle SSD. Le capacità non sono le stesse, quindi va fatto un ragionamento se mi posso accontentare di un disco un attimo più lento ma con molta più capacità e con dei costi più bassi, o se necessito per lavoro, perché magari faccio anche, elaboro video, quindi necessito poi di montaggio video e avere dei dischi performanti. Quella è sicuramente una delle soluzioni da valutare quando si fa l'acquisto. Certo. Gianfranco, ma tutte queste cose non le posso fare con i sistemi cloud, online, su internet? Posso fare delle cose che ci assomigliano, ma non allo stesso modo, per due o tre motivi. Il primo motivo è la capienza. Io posso avere in un NAS 4, 6, 12 terabyte di dati, averli in cloud la stessa quantità di dati si può, ma è molto costoso e sicuramente esce dai piani gratuiti di ogni gestore. Poi c'è un discorso di velocità. Se la stragrande maggioranza dei casi in cui utilizzo il dato lo faccio da casa, è chiaro che avere il dato in cloud e solo in cloud significa dover accedervi ogni volta via internet, e quindi spesso potrei non avere neanche la velocità adeguata. Faccio il caso di cui parlavamo prima: guardo un film che ho sul mio NAS, lo guardo sul TV, è chiaro che quello devo averlo in locale. Qualcuno potrebbe dire sì, ma tutti i sistemi di cloud si prevedono anche un mirror locale sul PC, ok, certo, vuol dire che devo tenere acceso il PC. Certo. Ecco, questo è un device, il NAS è un device che resta sempre acceso, a basso consumo, silenziosissimo se non totalmente silenzioso, quindi è sempre attivo e sempre pronto a rispondere alle richieste che possono venire in momenti qualunque, quindi non è un PC che io lascio acceso. Quindi quello che io posso fare con il cloud classico è una cosa ben diversa, che magari avere per esempio i miei contatti in cloud, in modo tale che se perdo lo smartphone recupero i miei contatti velocemente. Ecco, questa è una cosa che è assolutamente consigliabile e va fatta. Il NAS permette di avere un cloud personale, quindi avere tutti i vantaggi di poter accedere ai propri dati da remoto e farlo anche in maniera particolarmente furba. Poi magari parliamo delle fotografie che sono per esempio un ambito classico, e parallelamente avere tutti i vantaggi di uno storage proprio locale in casa, quindi grande a piacere, senza nessun problema, di cui decido tutto e tra l'altro con una quantità di servizi che i singoli sistemi di cloud non hanno. Per esempio Me li fanno pagare. Abbiamo fatto l'esempio delle videocamere IP per la sicurezza. Ci sono sistemi che offrono la memorizzazione in cloud del video catturato dalle videocamere, benissimo, a parte che funziona finché c'è il collegamento a internet, poi non funziona più, mentre in locale funziona anche se per caso internet dovesse cadere. Ma il problema qual è? Che questi servizi sono limitati nello spazio e costano un canone. Ecco, e poi sono un servizio che io, come dire, faccio una sottoscrizione cloud col produttore delle videocamere. Ok? Dopodiché ho dei file, faccio con Dropbox piuttosto che con qualcos'altro. Poi ho la musica e allora la metto da un'altra parte, e i video siccome non c'è un gestore unico di cloud che ti permetta veramente di fare le stesse cose che faccio con il NAS, io dico: ragazzi, ci vuole un NAS. Dopodiché i NAS hanno un'altra applicazione delle tantissime che hanno, che si possono caricare, quindi uno se lo costruisce un po' sartorialmente, che permette di prendere per esempio una cartella, tutto il disco, quello che si vuole, e tenerlo sincronizzato anche con un cloud esterno, per esempio con Google Drive, per aumentare ancora di più la sicurezza. Io so che una cartella è sacrosanta, non posso perderla neanche se arrivano i ladri e mi rubano il NAS, in caso di incendio, in caso di alluvione, qualsiasi cosa. Benissimo, quella cartella il NAS la terrà costantemente sincronizzata con un cloud esterno, così appena io aggiungo un file, istantaneamente quel file viene sincronizzato. Quindi è il massimo dei due mondi. Al Vise si può fare anche con il NAS di un'altra persona, cioè se io e Gianfranco abbiamo due NAS, io uno a casa mia e uno a casa di Gianfranco, possiamo creare delle cartelle che sincronizzano tra di loro, tra due NAS, così per aumentare, cioè se si incendia la casa di uno o dell'altro, l'altra speriamo di no. Certo, solitamente nelle aziende poi viene fatto questo, che poi in gergo viene chiamato disaster, famoso disaster recovery, quindi succede un disastro che poi se incendio, alluvione, io ho un altro NAS, un altro dispositivo che si è copiato nel tempo, quindi questa è una soluzione che nelle aziende viene fatta, ma nelle abitazioni uno può pensare, viene magari richiesto da un piano all'altro per appunto ovviare a queste problematiche, ovvio che è qualcosa di un po' più evoluto. Vorrei aggiungere qualcosa sul discorso che magari spesso molti ascoltatori spesso sottovalutano. L'altro vantaggio, quindi QNAP spinge il concetto di cloud personale, quindi i dati che io vado a mettere so dove sono a casa mia piuttosto che in azienda e sono di proprietà mia. Diversamente quando io vado a mettere dei file all'interno del cloud devo sapere che la proprietà, sottoscrivo un contratto, metto un flag che la proprietà del file che io metto sul cloud diventa di proprietà del cloud, di chi eroga cloud. Quindi ovviamente qualcuno può non aver piacere che le sue foto dell'estate, piuttosto che file magari più importanti, vadano comunque su dei data center che spesso non sappiamo dove sono, che possono essere all'estero, per quanto sicure, quindi che possono essere ottimi per una condivisione di file, quant'altro, ma possono non aver piacere che il mio file risieda là. Quindi il concetto di proprio personal cloud, quindi cloud personale che mi risiede nella mia abitazione, è sempre un concetto che ancora piace. Certo. Sì, quello che dice Alvise è corretto, però ricordiamo, stiamo parlando di servizi cloud non professionali. Se entriamo nel mondo professionale, i contratti possono essere anche creati, sì, in un altro modo. Anche. L'esempio, per esempio, di Google Photo, sì, no? Che sotto i 16 megapixel permette di caricare senza nessun costo un infinito storage di fotografie. E beh, qualcuno dice, ma io che mi interessa? Le carico su Google Photo, sono lì. Verissimo, anzi Google mi permette anche di fare un'analisi delle mie foto, se cerco spiaggia mi tira fuori tutte le spiagge, se cerco fontana mi tira fuori tutte le fontane. Questo vuol dire però, ecco, che... però vuol dire che parallelamente Google sa benissimo che io, Gianfranco Giardina, mi piace il mare, sono stato lì perché sa riconoscere i panorami. Le foto spesso, soprattutto se sono da smartphone, hanno anche il geotagging, quindi hanno anche una localizzazione precisa. Quindi io sto scambiando un servizio di storage in cloud gratuito, quindi sto scambiando questo servizio con delle informazioni personali. Questo può andarmi bene, può non andarmi bene. Se non mi va bene, sicuramente io posso fare la stessa cosa, forse direi anche un pochino meglio, con un NAS personale. Perché un pochino meglio? Perché ci sono poi una serie di app, questa volta per i device Android e iOS, quindi i migliori NAS ce l'hanno, quelli di QNAP ce l'hanno sicuramente, per poter accedere a questi dati anche remoto e all'interno di un'app, non su un sito web, quindi in maniera molto, molto piacevole. Prendiamo per esempio il caso delle foto, che secondo me è emblematico, sì, anche perché tutti ce le abbiamo. Innanzitutto il NAS automaticamente, quando rientriamo in casa, si succhia, se l'abbiamo autorizzato, dal nostro telefonino tutte le foto e i video nuovi che abbiamo fatto e li mette e li archivia e li mette via, quindi questa è già una bella sicurezza. Perdiamo, si rompe il telefono, non abbiamo fatto il backup, qualsiasi cosa, abbiamo tutto. Ma poi tutte queste foto e anche le altre foto fatte con le reflex, fatte con le altre fotocamere che noi mettiamo nel NAS, senza che lui ci chieda niente o che noi si debba fare niente, il NAS si incarica di scalarle, quindi di farne delle versioni nascoste a una risoluzione un pochino più bassa, ottimizzata per gli smartphone e ottimizzata per i tablet. Questo vuol dire che quando poi io sarò in giro e cercherò nella mia library di foto, io per esempio personalmente ho centinaia di migliaia di fotografie scattate da me, e quando devo navigarle perché vado da un amico, ti ricordi quella volta che, nessun problema, io apro la mia app sul telefono, navigo e istantaneamente scorro le foto a una velocità come se fossero in locale, perché ovviamente sto accedendo non ai 36 megapixel della foto della mia reflex, ma a una versione assolutamente ridotta e ottimizzata, tanto che la reazione del mio interlocutore classica è: ma quante foto hai sul telefonino? Invece non ce le hai sul tutte telefono. Non ce ne ho neanche una, ho quelle che ho scattato col telefonino, ma accedo come se fossi in locale alla stessa velocità, basta una connessione 3G qualsiasi. Quindi questo è un altro grosso vantaggio che non sempre posso ottenere con altri sistemi, sì. Perché anche lì, quando metto le foto in cloud, non tutti i cloud, o meglio quelli non fotografici, sicuramente non fanno nessuna ottimizzazione sulla foto, sì. In questo caso invece posso farla facilmente. Al Vise il NAS deve essere necessariamente sempre acceso? Questa è una classica domanda e spesso viene chiesto, che uno dice ma magari mi preferisco spegnerlo. Si consiglia di tenerlo acceso perché le meccaniche, i dischi, come tutte, più viene acceso e spento è pur sempre una criticità. Dal momento che consuma poco si consiglia veramente di tenerlo sempre acceso. Poi se uno va in ferie due mesi e dice io non ho necessità di accederci perché fortunatamente vado alle Maldive, non voglio, posso anche staccare la spina e spegnere tutto. Però l'unità nasce ed è fatta per rimanere accesa e viene ottimizzato i consumi e anche i dischi, che si le testine proprio del disco si attivano meno in modalità proprio sempre accesa. Bene, grazie ad Alvise Sinigaglia per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori. E grazie anche a Gianfranco Giardina per essere stato con noi, a presto e buon lavoro anche a te. Grazie mille. È tutto anche per questa settimana, per questa puntata di 2024. Come sempre grazie per la vostra attenzione, per aver ascoltato in streaming oppure scaricato sul vostro smartphone o su qualsiasi altro terminale, dispositivo, questa puntata di 2024. Anche questa settimana la nostra edizione podcast, il nostro super podcast, è presentato con tutte le interviste in versione integrale. Più di un'ora di trasmissione rispetto a quello che va in onda, che è un poco meno, il venerdì tra le 22 e le 23, domenica 13:30-14. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. Per il momento gli auguri di una buona Pasqua, oppure se state ascoltando dopo che la Pasqua è passata, gli auguri per un buon inizio di settimana. Grazie ancora e a presto.